piove vaghi per la città, senza nessun pensiero, e l'acqua nelle scarpe t'entra già. Cosa vorresti dire, cosa vorresti fare, se senti già le suole farci già? Che ci vuoi fare se nel taschin, frugari frugogno, non puoi trovare il becco d'un quattrin? Libero te ne vai, a piedi mai non hai i guai di chi va in tasca ed in tramvai. Ricco tu sei del cielo azzurro e del sussurro delle fronde al tuo passare. Sbocciano per te i fiorellini e gli uccellini birichini sulla strada fanciti. Le gocce cadono, ma che fa? Se ci bagniamo un po', domani il sole ci potrà asciugare. Non ti rovini il sale, le scarpe panciccia, seguiamo la strada del destino. Seguiamo la strada del destino.